Benvenuti, ben sintonizzati e sintonizzate, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa. Oggi è giovedì 23 febbraio, sono le 15 e inizia Tracce di Cinema. Federico, che puntatona! Io sono emozionata e sono emozionata perché l'ospite di oggi ha, secondo me, un valore inestimabile. È una grandissima artista, difficile catalogarla perché oltre ad essere una straordinaria cantante e interprete ha scritto libri, ha recitato, e non è facile proprio metterle nessun tipo di etichetta, neanche vogliamo farlo, anche per celebrare proprio la sua libertà e anarchia, la sua sensibilità e il suo romanticismo, dura, ironica, romantica, angosciata, rumorosa, aggressiva, tenera, sono solo alcuni degli aggettivi che la descrivono, solo un pochino, perché è molto altro. Le sue visioni personalissime di musica e letteratura sono suoni che percorrono le parole, e le parole dei suoi libri suonano come una musica. Tante vite ha vissuto questa artista, questa grande interprete, di album ne ha fermati una ventina o qualcosa di più, non molti per una carriera, Fede, che è iniziata a 15 anni, no? Molti dei suoi pezzi sono stati usati nel cinema, in tantissime colonne sonore, è per questo che abbiamo pensato a lei. E poi nelle sue vite, perché sembra, leggendo la sua biografia, che di vite non ne abbia vissuta solo una, ha collaborato con tantissimi artisti e ha lasciato proprio un gran bel segno nella storia della musica e dell'arte e della cultura. Fede, io sai che ancora non ci credo? Sono nel pallone in subbuglio da giorni e sono emozionatissima perché oggi a parlarci di cinema e di musica c'è Nada. La luna pesa alla parete, la notte a me mi viene sete, fammi bere amore, fammi bere, fammi bere un po' di te. Ti stringerò e giuro che ti farò male nella notte. Come un'onda io ti sentirà. Nada con Ti stringerò, versione chitarra e voce dalla colonna sonora di Gig Robot. Sì, sì, composta, lo chiamavano Gig Robot del 2015, composta dal regista e dal musicista Michele Braga, e poi ci sono un sacco di pezzi, insomma, di repertorio classico anni 80, tra cui questo bellissimo questa bellissima Ti stringerò di Nada, che viene suonata durante la scena in cui lo zingaro Luca Marinelli, che è un appassionato di musica anni 80, memorabile la sua cover di Un'emozione da poco di Anna Oxa, lui ha un truccato, tutto truccato, e lui ha proprio una passione per questo genere musicale, che addirittura cita, no, in una scena, ti ricordi, Fede, quando parla di sé che vuole diventare un grande boss della mala romana, dice: stanco di essere crocifisso al muro, sono stanco di essere crocifisso al muro di questa carrettera, di questa vita balera, cita Loredana Bertè, non sono una signora. E poi c'è questa scena ferocissima in cui lui arriva nella casa di questa boss e fa una strage, proprio sulle note di questo pezzo. Michele Braga, che ha curato la colonna sonora, dice proprio che le scene più belle di questo film sono proprio montate con la musica di repertorio, e questa in particolare è la scena che ha amato di più, è il pezzo che ha amato di più. Pensi mai, amore mio, essere alberi, due come noi, amore mio, fin da piccoli, stare sempre insieme come nati dentro un bosco, a volere. Invece io sono andata via, perché non lo so più, ci penso sempre a casa mia e lì vicino sempre stato tu. Ci pensi mai, amore mio, stare da presso, una quercia io, amore mio, tu ci presso, stare sempre insieme, carezzarci con il vento, con tanti figlioli, uccellini fino a 100. Invece io sono andata via e sempre a te, Pensi mai, amore mio, essere piante saremmo noi, amore, amore mio, più contenti. Uno come te in ogni posto non l'ho trovato, nei boschi, nei giardini, nelle siepi t'ho cercato. E adesso io sto per appassire e tu come starai? Torno da te per non morire, chissà se tu Nada con Nati Alberi dalla colonna sonora del film Con gli occhi chiusi di Francesca Archibugi del 1994, tratto dall'omonimo romanzo di Federico Tozzi, con gli interpreti erano Marco Messeri, Stefania Sandrelli, Laura Betti, Angela Molina, e le musiche sono state curate da un grandissimo Battista Lena, che ha composto praticamente tutte le colonne sonore di questa regista. Mignone è partita verso sera, Il grande cocomero, Con gli occhi chiusi, ma non solo, Ferie d'agosto, Ovo sodo, Il guerriero Camillo di Claudio Bigagli, El dia de la bestia di Alex della Iglesia. E ha una bella storia Battista Lena, perché insomma ha percorso tante strade nel panorama musicale, ha fatto tanto jazz, ha collaborato con Roberto Gatto, Enrico Rava, e poi nel 1997 ha realizzato il progetto Banda Sonora, che coinvolge 60 musicisti, ottenendo numerosi riconoscimenti in Italia e all'estero. E a Pechino, mi è interessato questa informazione, Fede, e Shanghai ha collaborato, è stato il primo occidentale a collaborare con la banda dell'Esercito Popolare di Liberazione Cinese. È bello questo film, perché insomma c'è l'Archibugi, mi ricordo che insomma usava molto questa tecnica della sfocatura, ecco, è arrivata, e come proprio a cercare di trasmettere l'idea che insomma l'amore certe volte non ci fa vedere bene. Nada, grandissima Nada, ha iniziato giovanissima la sua carriera. Era il 1969, la canzone celeberrima con cui ha iniziato era Ma che freddo fa, è diventata, anche se non, al Festival di Sanremo, anche se non vinse, diventò una, insomma, ha venduto un sacco di copie, ha avuto un grandissimo successo. Però nonostante questo Nada insomma non era contenta. Poi insomma ci racconterà anche un po' lei di questa immagine che le avevano costruito intorno, di ragazzina prodigio, no? Fatta proprio su misura da grande Franco Migliacci, e quindi insomma si è cimentata con altri generi, con altre cose, ha preso proprio un altro tipo di strada, si indirizza verso la canzone d'autore. E ho letto nella sua biografia, Fede, che ha collaborato con tantissimi cantautori italiani, da Cocciante, Claudio Baglioni, Antonello Venditti e De Gregori, che allora erano ancora sconosciuti, e con loro ha fatto una serie di incisioni che sono rimaste inedite per anni, e poi sono state raccolte in un CD. Molte però sono ancora inedite e sono conservate negli archivi della RCA. Il CD che le comprende mi pare che si chiami Malanima, successi ed inediti 1969-1994. E poi nel 73 ha collaborato con un altro grande e ci racconterà, voglio farmi raccontare e farci raccontare, di Piero Ciampi, con cui insomma che le ha scritto i bellissimi pezzi di un album che si intitolava Ho scoperto che esisto anch'io. E a proposito di questo pezzo, di questo album, un giornalista ha scritto, senti che bello: in alcune canzoni la sua voce si materializza come una frustata, in altre sembra nascere dagli abissi della malinconia, in altre ancora è il tono spudorato di uno sberleffo, in altre infine la dolcezza struggente di un disincanto. Sono stato incantato dai colori della voce di Nada, e in questo disco le canzoni di Ciampi scorrono come gioielli. D'inverno il sole stanco a letto, presto se ne va. Non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me. Ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza. Forse allora sì che t'amerei. Una farfalla che sui fiori non vola più, che non vola più, che non vola più. Mi son bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già. Ma che freddo fa. Un ragazzo mai delusa. Quel sorriso che non tornerà. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più. E senza il vento, un vento freddo, come le foglie le speranze butta giù. Ma questa vita cos'è se manchi tu? We'll be right back. una versione di Ma che freddo fa, un po' meno conosciuta del grande successo che fu quello di Sanremo, e Fausto Mesolella la chitarra, Ferruccio Spinetti il contrabbasso per il Nada Trio. E abbiamo Nada in collegamento telefonico. Ciao Nada, benvenuta. Ciao. Tutto bene? Sì, bene. Allora, sono diverse le strade che ci hanno portato a te. C'è stato prima quell'incontro che abbiamo fatto alla Casetta Rossa qui a Roma con Alessandro Fabrizi, che ha curato la regia del tuo lavoro teatrale autobiografico, e poi abbiamo avuto ospite qui in trasmissione Massimo Zamboni, con cui hai collaborato in diverse occasioni. Sì, poi Costanza Quatriglio, che mi ha fatto vedere il documentario dedicato a te e dal quale abbiamo tratto diverse canzoni in programma. Insomma, è un piacere averti con noi, Nada. Bene, grazie. Questa vita senza di te non sarebbe stata la stessa. Addirittura. Sono emozionatissima. Nada. No. Ho letto la tua biografia, a parte che mi sono ricordata che tantissimi anni fa ti ho visto in un piccolo teatro a Roma che recitavi. Era un piccolissimo teatro. Teatro. È possibile? Piccolissimo teatro. Sì. Oddio, adesso in questo momento non mi ricordo. Molto scuro. E io ero. Il programma non mi ricordo. Ero molto giovane, ma mi ricordo questo tuo lavoro teatrale. Adesso non mi sfugge il nome. Sì, perché io comunque mi piace molto, insomma, il teatro, insomma, è una cosa che quando posso, quando mi vengono delle idee, quando riesco, insomma, a mettere insieme qualcosa, mi piace, insomma, continuare a farlo. Ecco, l'ho fatto tanti anni fa, ho cominciato per caso con Giulio Bosetti, ho fatto la prosa, quella proprio classica, e lì mi sono un po' scoperta un po' di inclinazione, non solo, ma anche la bellezza, appunto, di recitare in questo spazio, di raccontare, di far vivere dei personaggi, delle storie, insomma. E quindi, insomma, non sempre mi è possibile, perché non è facile, però, insomma, ho fatto abbastanza cose, comunque, tra intervallate tra musica, dischi e tante altre cose, libri. Stavo appunto dicendo, insomma, all'inizio della trasmissione, che leggendo la tua biografia sembra che hai vissuto non una vita, ma molte, molte di più, perché... Ma infatti io non ci penso mai, non guardo mai dietro, perché cioè, le cose avvengono, si fanno e poi si buttano dietro, sono passate e si va avanti, perché effettivamente quando mi capita anche a me di fare così, di guardare, dico, mannaggia, ma quante cose, come però si fanno alla fine... insomma, il mio mestiere è così bello, pieno di cose da sperimentare, di cose che succedono sempre nuove, insomma. Io poi l'ho scoperto, cioè l'ho cominciato presto, ma l'ho scoperto dopo, per cui un po' una cosa che è in contraddizione, però questo, insomma, mi fa sempre, mi dà ancora la possibilità, insomma, di cercare, di continuare, ecco, con curiosità, con entusiasmo e soprattutto con la passione, ecco, perché è fondamentale. E poi bellissimi i tuoi incontri, insomma, le tue collaborazioni da Dario Fo, Paolo Conte, Ciampi, insomma. Beh sì, alcune sono state proprio sporadiche così, però è sempre importanti, altre invece magari più approfondite, più... Però, insomma, sì, beh, è naturale, insomma, in questo lavoro così si incontrano persone, ci si scambiano le esperienze, insomma, si cerca di collaborare quando è possibile, quando le cose nascono da veramente un comune sentire, da un piacere di fare qualcosa con qualcuno, sempre anche per imparare, sempre, cioè sempre da imparare, insomma, da scoprire. Questa è, come dicevo prima, è la bellezza di questo, non so se chiamarlo lavoro, perché credo di essere fortunata, ma insomma del fatto di appunto di essere di fare un qualcosa comunque di creativo, ecco, sì. In qualche modo. Tra l'altro, tornando ad Alessandro Fabrizi, mi ha detto anche della tua partecipazione al Festival del Teatro Ecologico a Stromboli. Mi ha girato anche due video in cui tu fai un paio di pezzi, molto molto carino, alla luce delle torce. E senti, rispetto al cinema, ecco, il tuo rapporto con il cinema, immagino che sia cominciato come spettatrice. Sì, beh, io sono un'appassionata di cinema, mi piace tantissimo. Quando posso vado al cinema, adesso ultimamente purtroppo insomma, abito in un posto dove non è facile andare al cinema, però insomma ho sempre seguito e mi piace molto, lo trovo veramente un momento di evasione meraviglioso il cinema, proprio dove ti annulli e dove ti identifichi in qualche cosa che insomma ti svuota e ti fa stare bene, non so come dire, ti svuota nel senso buono del termine, ma ti dà anche molte cose, ti fa viaggiare con la fantasia, l'immagine, ti insegna un sacco di cose, anche si imparano, insomma il cinema per me è fantastico, ecco. Quindi niente. Senti, poi tra l'altro diverse tue canzoni sono state utilizzate nelle colonne sonore, e poi Costanza Quadriglio ha dedicato proprio un lavoro alla tua arte, alla tua persona, e da lì abbiamo tratto diverse cose. Volevo chiederti se hai collaborato anche direttamente alla costruzione delle colonne, di alcune colonne sonore per alcuni lavori. No, questo non è questo mai, non è mai successo. I registi dei film hanno scelto queste canzoni è stata una scelta loro e hanno fatto tutto loro, insomma. Io diciamo che ho dato la mia piccola autorizzazione, come si dice, per usare appunto le mie canzoni, ma poi c'è stata l'ultima, che diciamo anche abbastanza clamorosa, che è quella dei Young Pop, insomma, sì. Senza un perché, che è una canzone, insomma, anche tutte le altre sono state importanti sempre, però questa ultima, insomma, per me anche ancora più, perché questa è una canzone anche che non solo ho cantato, ma fa parte del mio lavoro, ho scritto, fa parte un po' del mio percorso, che ho cominciato appunto come cantante, a cantare anche canzoni molto belle, tipo Ma che credo fai altre, ma poi piano piano, insomma, ho cominciato a scrivere prima le parole, poi la musica, e adesso insomma da tanti anni faccio i miei dischi, e diciamo che le canzoni nei film erano state soprattutto utilizzate, quelle diciamo dei miei inizi, quelle che erano state veramente delle cose clamorose, come dire, e quindi il fatto che sia stata scelta questa canzone per me è stata una cosa anche molto importante. E poi una grande soddisfazione, Nada, ho letto da qualcuno, non so, adesso non mi ricordo il nome, però che il pezzo, diciamo che non secondo questa persona, con questa recensione che ho letto su internet, era un brano sconosciuto. Io lo conoscevo già da prima che Sorrentino lo utilizzasse. Beh, sconosciuto, diciamo, nel senso che non ha avuto un successo popolare. Insomma, un brano famosissimo. No, era stato il singolo di un disco, tra l'altro, Tutto l'amore che mi manca, che era un album veramente molto importante per me, perché è stato prodotto da John Perry, c'è un produttore inglese eccezionale, che ha lavorato con PJ Harvey, no? Esatto. Tracy Chapman, After Hours, sì. Mi è venuto da ridere quando ho letto questa cosa, perché poi ho pensato a quello che è successo, no? Cioè, se era un brano sconosciuto, adesso ha avuto, cioè è un brano planetario, nel senso che ormai è stato in classifica 5 mesi. Sì. Insomma, sicuramente Sorrentino ha avuto il merito di accorgersene che fosse un bel pezzo e di utilizzarlo in un modo eccezionale, che chiaramente ha dato molto risalto alla canzone, ma poi un pochettino anche alla canzone evidentemente aveva delle possibilità che magari allora non erano state, per tanti ragioni. A volte i dischi o sono meno fortunati, escono nel momento sbagliato, non hanno quel percorso, quella visibilità che magari, insomma, ci sono tante cose che Io a volte cerco anche di non capire, perché forse non c'è neanche niente da capire, però come diceva John Parrish quando ci siamo sentiti adesso ultimamente, proprio appunto in occasione di questa rinascita di questa canzone, lui ha detto: ma una canzone bella è sempre bella, giustamente, così, semplicemente, non c'è nient'altro di... E quindi insomma, ha avuto il suo percorso un po' più, un po' in ritardo, ma ce l'ha avuto, ecco. Sono d'accordo, ha avuto il successo ora che comunque meritava anche prima, secondo me. E invece ti volevo chiedere una cosa a proposito di Sorrentino: vi siete conosciuti, avete parlato di questa sua scelta? Lui è un grande appassionato di musica, mi ricordo che agli Oscar ha ringraziato Maradona e Talking Heads. Un'altra ragione per cui mi sono sentita veramente una grande soddisfazione, uno che comunque nella musica è molto attento e ci capisce, insomma, quindi è anche una ragione in più. Sì, ci siamo sentiti e chiaramente poi insomma avremo modo anche di conoscerci meglio, perché insomma mi sembra una cosa veramente bella questa, ecco, per me. Bene, Nada. Nada, allora ci sentiamo proprio questo pezzo e noi ci sentiamo tra un quarto d'ora circa, va bene? Va bene. Ok. Ciao, a dopo. A dopo, ciao. Lei non parla mai, lei non dice mai niente. Ha bisogno d'affetto e pensa che il mondo non sia solo questo. Non c'è niente di meglio che stare ferma dentro a uno specchio. Com'è giusto che sia quando la sua testa va giù. E tutta la vita gira infinita senza un perché. E tutto viene dal niente. Senza di te. Lei non parla mai, lei non dice mai niente. Non è poi così strano se chiede perdono e non ha fatto niente. Non c'è niente di meglio che stare in silenzio, pensare al meglio. A un'estate leggera che qui ancora, ancora non c'è. E tutta la vita gira infinita senza un perché. E tutto viene dal niente, niente rimane senza di te. Senza un perché da The Young Pope di Sorrentino. Io me la canto. È bellissima la scena del film in cui viene utilizzato questo pezzo. Arriva questa presidentessa della Groenlandia, qualcosa del genere, che va dal Papa e come omaggio gli porta questo disco con questo pezzo di Nada, e il Papa si chiude in questa stanza tutto vestito da Papa e si Jude Law e si gode questa canzone, si lascia proprio andare, e devo dire che la canzone proprio mette in ombra Jude Law, perché è talmente bella che poi uno chiude gli occhi e vuole soltanto concentrarsi su questa voce stupenda. Anche le parole sono bellissime, no Fede? Sì. Non so so ballare niente, mi dondolo in disparte, la vita è una mossa, dimentico me stessa, sono la tua donna piena d'ombre. Luna in piena dalla colonna sonora del documentario di Costanza Quatriglio, Il mio cuore umano, del 2009, cara Ottavia. Sì, sì, che insomma è tratto dal, il titolo è preso dal romanzo autobiografico di Nada, che era uscito un anno prima, bellissimo. Anche il documentario è molto bello, io purtroppo sono riuscita a vederne soltanto una parte, perché la mia vita è un fallimento di fronte a tutto ciò che è, cioè, è di piacevole, ci sono soltanto cose, rotture di palle, e quindi mi vedrò la seconda parte, ma insomma mi è sembrato molto bello ripercorrere proprio la vita di Nada, seguendo un po' passo passo anche, credo, il libro, insomma, perché proprio è la sua storia, ecco, e messa in al cinema, raccontata nel cinema. E ci sono tantissimi pezzi, noi abbiamo scelto questo che era secondo noi il più bello. Passiamo adesso a una delle tue preferite, va. Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sassofono. si annoia appoggiata a uno specchio. Tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesia. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo tempo. Una sera incontrò un ragazzo gentile. Lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno shock. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando a casa. Lei ballerà tra le stelle accese e scoprirà, scoprirà l'amore. L'amore disperato. Quella volta lei lo perse di vista. Disperata lo aspetta ogni sera al sassofono blu. Una notte da lupi la stava piangendo. Quella notte il telefono strillò come un gallo. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando lui. Sembra un angelo caduto dal cielo. Quando si incontrano toccarsi è proprio uno show. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando forte. Accese e scoprirà, scoprirà l'amore, l'amore disperato. Questa l'hai voluta fortemente, amore disperato. Sì, ci hanno fatto pure un trillino. Ci hanno fatto pure un trillino. Senti, Fede, questa l'ho voluta fortemente anche perché fa parte della colonna sonora di un gran film, Mio fratello è figlio unico, del 2007, diretto da Daniele Lucchetti, tratto dal romanzo Il fascio comunista di Antonio Pennacchi, ambientato negli anni 70, protagonisti due fratelli molto diversi fra loro, come spesso succede, e le musiche vanno da Nada a tanti altri interpreti italiani. Il titolo è tratto dalla canzone di Rino Gaetano. Mi ha incuriosito che invece non compare questa canzone di Rino Gaetano nella colonna sonora. Non l'ha voluta usare Lucchetti perché non voleva insistere troppo sul tema. Il film ha partecipato con grande successo al Festival di Cannes del 2007 nella sezione Un certain regard. E questo pezzo, Amore disperato, è un 45 giri che è pubblicato nel 1983 e fu quando uscì uno dei singoli più venduti in Italia, oltre 300.000 copie, e poi venne inserito anche nell'album Smalto ed è considerata una delle canzoni più rappresentative degli anni 80, e si capisce anche perché è bellissima. Thank you. adesso so ancora volare. Grazie per avermi stretta più forte, per avermi anche ascoltata quando non dicevo niente, perché lo sai. Saperlo mi tormento, resterò con te, non ti lascerò più. Su questa terra dura che mi tira giù, resterò con te, dura di una pietra, così stretta che spezzato il cuore. Dal vivo con Massimo Zamboni, questa era Grazie. Nada, ben ritrovata, eccoci qui. Ciao. Grazie, allora, Nada. Al cinema, questo è il secondo tempo. Questo è il secondo tempo. E, tra l'altro, con Massimo Zamboni, una delle mie delle tue canzoni che preferisco è Miccia prende fuoco. Ci racconti un po' del rapporto artistico con Massimo? Infatti con Massimo ci siamo conosciuti proprio per quella canzone. Lui stava facendo il primo disco da solista dopo appunto la separazione con i CSI, e allora aveva bisogno di voci chiaramente per cantare, perché lui ancora non si era cimentato, è chitarrista, adesso poi ultimamente ha fatto canta anche, però lì era proprio all'inizio, e quindi mi chiamò perché aveva sentito appunto Tutto l'amore che mi manca, quel disco dove c'è Senza un perché, era appena uscito, e insomma che era un disco dove io cantavo anche molto sui toni bassi, insomma su era molto particolare anche come cantare, come stesura di canzoni melodica, diciamo così. E allora Massimo mi chiamò e mi disse se volevo cantare qualche canzone nel suo disco, che insomma, e ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti, poi da lì insomma io ero una fan dei CCCP addirittura, poi CSI, lui anche poi aveva seguito un po' tutte i miei dischi da quando avevo cominciato insomma a scrivere un po', a staccarmi diciamo dalle cose più popolari, non so come chiamarle, insomma un po' dalla televisione, dalle cose di quel momento che giravano di più, e quindi insomma ci siamo piaciuti anche come persona, no? A livello di amicizia chiaramente, sì. E poi insomma oltre alla musica le cose nascono anche perché tra le persone ci sono appunto, c'è un rapporto di amicizia, ci si riconosce, ci fa piacere stare insieme, insomma poi Massimo è diventato da lì in poi quasi il mio consigliere, ogni cosa che faccio insomma chiamo sempre Massimo, chiedo i suoi consigli preziosi. È un bravissimo musicista, un elaboratore di suono della chitarra, insomma lui sì. La suona veramente, quando senti la chitarra che suona Zamboni è Zamboni, insomma al di là della tecnica più o meno, adesso non lo so, non voglio entrare in questa, però lo riconosce, insomma questo per un chitarrista è molto importante. Sì. Poi ci ha chiamato DJ Elettrodo, che fa una trasmissione qui in radio, ricordandoci di una tua partecipazione a un festival di musica elettronica, Post Romantic Empire all'Init qui a Roma nel lontano 2009, pensa. Una cosa bellissima, un'esperienza veramente fantastica, durava mi pare 48 ore senza interruzione, giorno e notte si alternavano gruppi di tutti i tipi, soprattutto musica elettronica, sì. Non solo italiani, che venivano insomma da tutte le parti dell'Europa, non so se anche dall'America, ma insomma c'erano molti gruppi tedeschi, mi ricordo olandesi, insomma una cosa bellissima. Io collaborai, mi chiamarono gli Hardcore, sì. Gianpaolo, adesso non mi ricordo il cognome, cioè Gianpaolo, sì, il leader degli Hardcore, e che io insomma loro facevano musica, adesso non lo so, li ho persi un po' di vista, però facevano musica popolare, sì. Che con me non c'entrava niente, però insomma appunto a volte c'è incontrarsi quando, anche se apparentemente non, siamo diversi, però comunque tutti cerchiamo di fare della musica qualcosa di insomma di sperimentare, di collaborare, di portare quello che uno sa fare a un altro di cui no ne ha bisogno in quel momento, perché pensa che quello che tu fai possa servire a quello che è una cosa bellissima. E quindi io andai in questo festival ospite degli Hardcore, fu un'esperienza, guarda, ancora me la ricordo, infatti ogni tanto ma lo fanno ancora questo festival, perché io ci tornerei Ti facciamo sapere. Senti Nada, prossimamente sarai impegnata in concerti, stai incidendo, sì, dove ti vedremo? Abbiamo insomma insieme a Fausto Nesolella, che tu hai citato all'inizio, e a Ferruccio Spinetti, abbiamo ridato vita al Nada Trio. Dopo un po' di anni, dopo una parentesi che Ferruccio si è presa facendo musica nuda, Fausto le sue cose, io le mie, però sempre ci siamo sempre sentiti, ogni tanto abbiamo fatto qualche concerto, però insomma a un certo punto abbiamo pensato di rifare un disco, abbiamo fatto appena finito di registrare il disco che uscirà adesso a fine marzo, e faremo un tour insieme, sì, dopo un bel po' di anni. Bene. Non vediamo l'ora, Nada. Senti, un'altra sarà veramente ritrovarci tutti insieme, è stata sì, lo sapevo, me lo aspettavo, però proprio risentire perché cantare con il contrabbasso e la chitarra c'è una libertà, c'è una la voce, le parole prendono un significato diverso, insomma, sì. È bellissimo, e quindi penso che sarà per me sicuramente un concerto che non vedo l'ora di fare. Speriamo di vederti anche a Roma, allora. Sì, sarò anche a Roma. Bene, bene. Pensata, però mi hanno detto che verremo anche a Roma, sì. Bene. Nada, allora, un abbraccio, è stato veramente un piacere, speriamo a presto anche. A tutti voi, grazie. Ciao. Ed è tutto anche per Tracce di Cinema, mia cara Ottavia, ci lasciamo con un bel brano. Che è sempre dalla colonna sonora del documentario di Costanza Quatriglio, Il mio cuore umano. Vuoi ricordare anche qualcosa? Sì, voglio ricordare di sostenere questa radio attraverso il conto corrente postale 6180-4001 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Voci 56-00185 Roma, o attraverso il sito della radio www.ondarossa.info, dove trovate tutte quante le coordinate per sostenerci telematicamente, elettronicamente, via web. E ricordatevi di farlo, non è importante tante quanto, ma che comunque si dia un contributo a questa radio che è libera e senza padroni e senza pubblicità dal 1977 e vorrebbe continuare a esserlo per a lungo. Ci lasciamo con Ti troverò, a giovedì prossimo sempre dalle 15 alle 16. Che ti farà rabbrividire, le paure, il dolore, l'amore, il sentire, cose che si stratificano sulla pelle, lasciano segni che non si cancellano. E sempre, ogni momento, sei dentro quel che sento. Cosa che io prendo, e sempre col mio passo e attraverso tutto il tempo, tutto il male che io taglio, tutto il bene che ti voglio e non ti lascio più. Sembrerà d'aver pianto, e troverò in te un silenzio che mi farà dimenticare le paure, le angosce, l'odio, il dolore, cose che si modificano con l'andare del tempo, ma non si cancellano. Sempre, ogni momento, sei dentro quel